24 mattino. Le 8 e 17 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. L'economia. Soldi e dintorni. Eccoci qui con Deborah Rosciani, ben ritrovata Deborah. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Allora, anche oggi facciamo arrabbiare qualcuno. No, non è sì, che sì. Siamo qui per far arrabbiare, no. Però parliamo di un argomento sensibile. Che qualche volta è capitato che abbia fatto arrabbiare qualcuno. Beh, molte, no? So, quando sei con gli spaghetti appena scolati, ti stai mettendo a cena, telefonata, non è la suocera, non è la anche suocera, se capita, può capitare anche lei, ma è qualcuno che ci vuole vendere, appioppare un abbonamento, un'enciclopedia, vendere qualcosa, una rivista, insomma, rinnovare un abbonamento magari di un servizio che già abbiamo attivato magari in passato. In genere qualcuno che, ecco, si vuole sbolognare un po' così. No, però mi è piaciuto Cazzo. L'esempio che hai fatto, perché credo proprio che capiti esattamente quando si sta scolando la pasta. E beh, chiaro, perché sanno di trovare qualcuno in casa. Vabbè, esattamente. Comunque. In realtà questa pratica del telemarketing selvaggio era stata bloccata in qualche modo da una pronuncia dell'autorità garante della privacy lo scorso ottobre, però in questi giorni se ne torna a parlare. Per quale motivo? Ce lo facciamo spiegare questa mattina da Luca Bolognini, presidente dell'Istituto Italiano per la Privacy. Presidente, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, ci racconta un po' per quale motivo in questi giorni questo tema è diventato di nuovo, ha riguadagnato di nuovo la ribalta della cronaca e dei giornali? Ma guardi, un piccolo riassunto, nel senso che in realtà la questione è in piedi da diversi anni, non solo da quando quest'estate il garante ha comminato quelle sanzioni pesanti a diversi operatori. È in piedi da anni perché in realtà le regole sulle telefonate indesiderate ci sono almeno da quando è in vigore il codice privacy, cioè il 2003. In realtà c'erano alcune regole anche prima. Poi nel 2004 il garante dettò le linee guida, nel 2005, 2006 e nel 2008 ha fatto provvedimenti di raccomandazione e di sanzione. Gli ultimi sono stati particolarmente duri e hanno preoccupato gli operatori, perché gli operatori hanno detto: se dobbiamo rispettare queste regole, noi rischiamo di dover mandare a casa più di 30.000 lavoratori. Per cui si sono rivolti alla politica? Per cui si sono rivolti alla politica, e rivolgendosi alla politica hanno ottenuto, e arriviamo ad oggi, proprio oggi dovrebbe essere approvata in Parlamento la legge di conversione del milleproroghe. Esatto, tra l'altro blindato, perché il governo su questo ha chiesto la fiducia, che probabilmente otterrà. Non è più modificabile. Sono riusciti a ottenere l'inserimento di un emendamento che di fatto, senza scendere nel legalese, ma di fatto consente agli operatori, ai call center, di chiamare tutti i numeri presenti negli elenchi prima del 1 agosto 2005, senza dover rispettare la regola del consenso e la regola dell'adeguata informativa, che in teoria avrebbero dovuto essere rilasciate agli utenti prima. E prima significa anche prima di un primo contatto, cioè prima di essere chiamati in qualunque maniera da un call center. Quindi il tema non è tanto la telefonata o il telemarketing selvaggio, e anche questo, quanto la banca dati da cui queste società attingono per reperire il nostro nome e il nostro numero di telefono, e quindi chiamarci per proporci la propria offerta commerciale. Diciamo che con questa norma, appena entrerà in vigore, noi non potremo più dire: non mi potevate chiamare, se avremo un numero risalente a prima del 1 agosto 2005, non mi potevate chiamare perché io non vi diedi il mio consenso. Possono chiamarci, però attenzione, possono chiamarci per un primo contatto. Se dopo il primo contatto noi non vogliamo più essere disturbati, resta in vigore anche dopo questo emendamento la necessità di rispettare l'articolo 7 del codice privacy, e ciascuno di noi può dire: non chiamatemi più. Qui però si apre tutto un altro discorso. E infatti, tra l'altro, un altro discorso che lei, con un articolo a doppia firma che ha scritto appunto per il Sole 24 Ore nei giorni scorsi, ha toccato, perché mi pare di capire, se non ricordo male, che ha fatto anche una proposta su cui come questa questione potrebbe essere disciplinata. Per esempio, tentando di costituire una sorta di lista ufficiale che potrebbe essere tenuta dall'autorità garante, che gli operatori potrebbero consultare almeno una volta al mese, se non ricordo male, firmare appunto la proposta è questa. Mi chiedo però chi potrebbe dare il suo consenso, visto che comunque questo tipo di telefonata nessuno la gradisce, Bolognini, ad essere inserito in una lista come questa. Dunque, ma in realtà il sistema sarebbe leggermente diverso, cioè adesso con le norme restrittive che vigono in Italia e in realtà anche dopo, perché non dimentichiamo che questo emendamento che viene approvato oggi resta in vigore fino al 31 dicembre, poi tornano le vecchie regole, vige in Italia il sistema opt-in, che significa non mi potete chiamare se io non vi ho dato prima un consenso. E abbiamo detto che adesso ci sarà una sospensione di questa regola fino a dicembre. Noi invece proponiamo il sistema opt-out, che è un sistema che funziona benissimo in Inghilterra ed è un sistema che prevede che tutti possano essere chiamati per una volta, per un primo contatto. Chi non vuole più essere chiamato, contattato, disturbato, può iscrivere in una lista ufficiale il suo nominativo. Iscrivendo il proprio nominativo in questa lista ufficiale non verrà più chiamato. La nostra proposta, tra l'altro, prevede anche delle tempistiche in maniera tale che si possano rigenerare queste liste. Cosa intendo? Io non voglio più essere chiamato oggi, iscrivo il mio nominativo nella lista ufficiale del garante, da questo momento per un anno, per due anni, questo andrebbe scelto a livello normativo, non potrò più ricevere telefonate indesiderate. Allo scadere dei due anni rientrerò, per così dire, nel mercato e potrò ricominciare a essere contattato, a meno che io non mi riiscriva di nuovo nella lista per non essere disturbato. Mettiamolo così, insomma, bisogna ridisciplinare quasi di nuovo interamente la questione dopo che si è tentato di farlo negli ultimi anni più volte con scarso successo? Assolutamente sì. La critica che noi facciamo a questo emendamento, che è un emendamento provvisorio, che dura, come dicevo, fino a fine anno, è che non è collegato a una soluzione stabile, a una soluzione vera e propria del problema nell'interesse degli utenti e degli operatori. Degli operatori è evidente perché ci sono anche 30.000 posti di lavoro in gioco, esatto, e perché dopo tutto svolgono un lavoro che in molti casi, non dimentichiamolo, è utile e anche socialmente utile. Ecco, ci dia magari proprio una visione da questo punto di vista, perché noi abbiamo per gran parte dello spazio che abbiamo a disposizione focalizzato l'attenzione su una pratica commerciale utilizzata da molte aziende che riteniamo evidentemente fastidiosa per le modalità con cui questa avviene. Però che funzione ha il telemarketing, Bolognini? Perché adesso, al di là del fatto che occupa qualche decina di migliaia di posti di lavoro, però per le aziende che tipo di business stiamo parlando? Perché siamo anche a soldi e dintorni, quindi ci interessa anche l'aspetto economico della questione. Ma in realtà, guardi, intanto non c'è solo l'aspetto economico, perché come stavo accennando prima, i call center sono utilizzati anche per scopi, se vogliamo, più nobili ancora, non che l'economia non sia nobile, ma vengono utilizzati anche da organizzazioni di promozione e di solidarietà sociale, quindi non dimentichiamo che quando rispondiamo a un telefono e c'è un operatore, questo operatore potrebbe proporci anche qualcosa di buono. Anche dal punto di vista commerciale, normalmente il call center è utilizzato o per scopi promozionali, e cioè per favorirci in alcuni casi, per esempio quando riceviamo delle telefonate dal nostro operatore o da altri che ci vogliono proporre condizioni migliori, o in altri casi per proposte di vendita diretta. È evidente che ci vuole moderazione sia nell'arrabbiarsi, cosa che non va fatta, comunque nell'irritarsi che si viene contattati, sia nella relazione con questi operatori. Io scrivevo recentemente, per quanto riguarda più nello specifico la privacy, attenzione a dare per esempio i propri dati personali a un operatore che non si sa dopo tutto chi sia, quindi anche, ci sono anche questi aspetti da tenere presenti. Però ecco, non demonizziamoli, la cosa importante è non demonizzare chi ci chiama, perché chi ci chiama è un lavoratore esattamente come lo siamo noi. Poi c'è però l'aspetto delle molestie. Esatto, lo possiamo risolvere in 30 secondi, Bolognini, perché stiamo chiudendo. In 30 secondi c'è l'articolo 660 del codice penale, e cioè nessun call center ci può molestare, ci può disturbare a mezzanotte. Benissimo, ma ci sono utenti più tartassati rispetto ad altri? Dipende dalle zone, dipende dalle liste, fra l'altro i nostri numeri sono presenti in innumerevoli liste, e questo è uno dei problemi che si risolverebbero con la Robinson List che noi proponiamo. Benissimo, grazie a Luca Bolognini, presidente dell'Istituto Italiano per la Privacy. Buon lavoro naturalmente per questo ambito che molto spesso, insomma, non analizziamo molto attentamente, ci sfugge. Poi però, quando invece ci vengono a disturbare la nostra privacy anche a questi livelli, viene disturbata, ci accorgiamo che esistono anche questi problemi. Alessandro, adesso comincio, vado dall'altra parte dello studio a tartassarti al telefono. Ah, benissimo, a disturbarti. Tanto in studio non prendono, quindi tra poco, mezzogiorno ovviamente. A mezzogiorno Salvadanaio, ritorniamo sui mutui, l'appuntamento settimanale. Bene. Del nostro contenitore della finanza. Noi ripartiamo tra poco dalla notizia dell'arresto, o meglio il fermo dei due rumeni accusati dello stupro al parco della Caffarella. Le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, uno sguardo alle ultime notizie. Chiedo scusa, sognavo un altro partito, non ce l'ho fatta, così Walter Veltroni ha spiegato le dimissioni da segretario del Partito Democratico, aggiungendo sul successore: non fate ad altri ciò che avete fatto a me. Sabato l'assemblea dovrebbe scegliere come reggente il vice di Veltroni, Dario Franceschini. Sono stati trasferiti nella notte 180 degli immigrati che si trovano a Lampedusa, nel centro dove ieri è scoppiata una rivolta con diversi feriti tra i migranti e gli agenti di polizia intervenuti. Per stamattina previsti altri due voli per trasferire 120 persone. Sono in stato di fermo i due rumeni ritenuti responsabili dello stupro della ragazzina di 14 anni compiuto sabato scorso al parco della Caffarella a Roma. Il più giovane, di 20 anni, era già stato fermato 9 volte ed espulso dall'Italia. 450 milioni di euro di risarcimento dallo Stato italiano è quanto chiedono i parenti delle vittime della strage di Marzabotto compiuta dai nazisti nel 1944, oltre 800 i civili uccisi. La richiesta si basa sulla legge Pinto che prevede una riparazione del danno per irragionevole durata del processo. La prima sentenza su Marzabotto è infatti arrivata solo nel 2007 e per i parenti delle vittime la causa è anche l'insabbiamento dello Stato italiano. Infine il calcio: nell'andata dei sedicesimi di Coppa UEFA il Milan pareggia 1-1 a Brema con il Werder, la Sampdoria invece perde in casa 1-0 contro gli ucraini del Metalist. Oggi tocca altre due italiane, Lech Poznan Udinese e Fiorentina Ajax, le partite. È il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore, dedicato al tema del DDL sulle intercettazioni. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Non c'è dubbio che delle intercettazioni telefoniche sia stato fatto un largo abuso e che in diversi casi siano state pubblicate conversazioni private del tutto ininfluenti ai fini processuali, a volte fatte da persone estranee alle indagini. Ma il disegno di legge che le limita, attualmente in discussione, è una seria minaccia alla sicurezza dei cittadini e alla trasparenza della vita pubblica. Prevedere l'uso delle intercettazioni solo quando si è davanti a gravi indizi di colpevolezza e non prima è un regalo alla malavita. Sì, posso fare delle intercettazioni, ma solo quando sono pressoché certo di avere in mano seri indizi di colpevolezza, cioè quasi mai. Come dire ai criminali di ogni genere: intanto scappate, poi ne parliamo. E tutto ciò mentre si parla di maggior rigore nelle indagini, di certezza della pena e persino di ronde. Quanto al divieto di pubblicazione, d'accordo nel limitare e punire gli abusi che ci sono, ma che l'opinione pubblica di una città, mettiamo Milano, non debba sapere che si indaga sulla clinica Santa Rita, quella dove si operavano i pazienti anche per nulla, è un insulto alla libertà del cittadino, prima ancora che alla libertà di stampa. Buona giornata. E grazie a Ferruccio De Bortoli, che troveremo domattina. Vi ricordo, tra l'altro, dopo le 9 Giuliano Ferrara ospita il ministro alla giustizia Alfano per parlare ovviamente di questo tema. L'abbiamo sentito nelle notizie, uno dei due fermati rumeni per l'accusa di stupro ai danni della 14enne era stato già fermato 9 volte, 2 arresti per rapina con lesione e furto aggravato, una denuncia per ricettazione collezionati nel giro di 2 settimane, condanna a 5 mesi di carcere. Per il prefetto di Roma era troppo ed era stato espulso dall'Italia, ma si trovava a Bologna, al centro di permanenza temporanea, dove un avvocato ha fatto ricorso e il giudice onorario del Tribunale Civile di Bologna, Mariangela Gentile, ha annullato il provvedimento di espulsione. Quello che è successo poi, insomma, è cronaca. Io saluto il segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Cascini. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Voglio salutare anche Massimo Martinelli, che è giornalista del Messaggero, segue anche oggi, scrive molto attentamente su questo tema. Buongiorno e benvenuto, Massimo. Buongiorno a voi. Cascini, e allora ci ritroviamo insomma a leggere di un provvedimento per l'ennesima volta che sconcerta, spiazza un po' i cittadini. Guardi, sul caso specifico io non so dirle perché non conosco gli estremi della vicenda. Quello che posso dirle è che in Italia è successo che forse con qualche superficialità non si è valutato il rischio criminale dell'inserimento della Romania nella Comunità Europea, che si è corso ai ripari in presenza di un'emergenza criminale che si è verificata in particolare nella capitale, si è corsa ai ripari però con strumenti legislativi e amministrativi non sempre adeguati, perché assunti anche con una certa fretta, e quindi può anche succedere che i provvedimenti adottati vengano annullati. Nel singolo caso, ripeto, non le so dire che cosa sia effettivamente successo, ma in generale quello che è successo rispetto ad una fetta di criminalità rumena che si è trovata in particolare a Roma, questo è accaduto. Diciamo che oggi è ricostruito bene sul Corriere della Sera, su Repubblica, sul Messaggero, insomma quello che è successo, l'iter, cioè c'è stato un decreto di espulsione del prefetto di Roma, la persona si trovava a Bologna, c'è un avvocato che l'ha difeso, ha fatto ricorso e questo giudice onorario ha accolto, ha respinto con 3 pagine di motivazione la motivazione dell'espulsione del prefetto, infondata, basata su cose infondate sostanzialmente. Però le chiedo, Cascini, che sia un magistrato, un giudice onorario, quindi un magistrato non togato, a decidere di un provvedimento così delicato e che poi purtroppo ha avuto le conseguenze se la persona è accusata e verranno, pare che abbia confessato. Ecco, anche questo non è un elemento un po' strano? Noi abbiamo più volte sottolineato l'esigenza che su queste misure che riguardano la libertà di circolazione delle persone e diritti fondamentali siano affidati, il controllo sia affidato ai magistrati ordinari. Però, guardi, adesso a prescindere dal fatto che si tratti di un magistrato onorario o di un magistrato professionale, è sempre difficile valutare ex post che cosa è successo, no? Noi oggi sappiamo che questa persona si è macchiata di gravissimi reati. Il punto è stabilire se al momento in cui è stata adottata questa decisione questa situazione era conosciuta e prevedibile. Beh, i 2 arresti per rapina, quello che ho detto, erano già stati fatti. Su queste basi il prefetto di Roma aveva detto allontanatelo, visto che tra l'altro è rumeno, quindi comunitario, per cui non è che è stato espulso perché immigrato irregolare, ma perché con il decreto firmato dopo la vicenda Reggiani, insomma, Prodi, considerato pericoloso, socialmente pericoloso. Sì, sì, le ripeto, quella normativa, i provvedimenti che ne sono seguiti non sono stati attentamente calibrati e quindi è successo, questo non è l'unico caso, è successo che ci sono stati molti annullamenti perché le regole per l'allontanamento dei comunitari, le regole stabilite dalla Comunità Europea sono molto stringenti e queste eccezioni fissate con un decreto legge e poi con i provvedimenti amministrativi non sempre hanno retto ai controlli dei tribunali. Io, Massimo Martinelli del Messaggero, tu già ieri scrivevi un po' questa storia che oggi con i nomi, i cognomi è ancora più chiara, insomma, l'iter giudiziario, ne scrivevi insomma in tono, come dire, una giustizia un po' da schegge impazzite, ogni tanto si decide in un modo, ogni tanto in un altro. Che considerazioni si possono fare visto che oggi qualcosa di più si sa sull'iter giudiziario di questa persona? Ma oggi la cosa che colpisce perlomeno me è leggere le dichiarazioni del giudice che ha annullato il provvedimento del rumeno arrestato ieri, e cioè che in quel tribunale, nel tribunale di Bologna, c'è questo orientamento giurisprudenziale secondo il quale 2 sentenze di condanna non bastano a classificare come pericolosa una persona. È vero, né tantomeno le denunce, dice. Esatto, questa è una dichiarazione che è sintomatica di una situazione più generale, cioè che la cosa che noi del Messaggero in qualche maniera cerchiamo di tratteggiare, cioè che viene fuori una geografia giudiziaria del nostro paese è differente, quindi la conseguenza è che si può affermare che la giustizia non sempre è uguale per tutti, nel senso che a Bologna viene applicata in una certa maniera, a Napoli in una maniera differente, a Palermo in una maniera ancora dissimile. Questo preoccupa soprattutto la gente comune, che non vede una uniformità di orientamento dei giudici. Che poi tra l'altro il giudice Mariangela Gentile aggiunge: certo, con il senno di poi, mi dispiace, questa è una dichiarazione resa a Repubblica, però voglio dire, il fatto effettivamente che tu hai sottolineato è quello, dice: non bastano per dichiarare la pericolosità sociale di un uomo, per il nostro tribunale non bastano due sentenze né tantomeno delle denunce. Questo effettivamente è un dato che fa riflettere, Massimo. Sì, assolutamente, ripeto, mi viene fuori una sorta di senso di disorientamento delle persone, ed è una cosa con la quale poi devono fare i conti i politici, gli amministratori pubblici, ma anche i magistrati. Io sono d'accordo con Cascini che forse bisognava prendere dei provvedimenti più restrittivi quando la Romania è entrata nell'Europa, però poi alla fine viene fuori anche la tendenza del magistrato ad essere a considerarsi culturalmente l'ultimo controllore di tutti i provvedimenti, anche quelli di un prefetto che stabilisce che una persona è pericolosa e ha gli strumenti per stabilirlo. E da questo punto di vista, per concludere, Cascini, secondo lei c'è effettivamente, anche come ha tratteggiato il Messaggero, una sorta di schizofrenia nell'applicazione delle stesse norme da tribunale a tribunale? Guardi, in realtà è esattamente il contrario, cioè è proprio il principio di uguaglianza, quindi il trattamento di cittadini rumeni allo stesso modo di tutti i cittadini comunitari che ha determinato questi effetti, che poi appaiono paradossali solo perché, come dire, si fondano in qualche modo su un pregiudizio nei confronti della comunità romena e di coloro che commettono reati, perché il trattamento dei cittadini comunitari che prevede la libera circolazione in tutti i paesi europei, con eccezioni molto stringenti, e che il decreto legge ha cercato di superare, ma non in maniera del tutto esaustiva, impongono per esempio di rispettare il principio che vale per tutti i cittadini della presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato. Ora, il problema è che le garanzie fondamentali delle persone accusate non è che ci possono piacere quando riguardano alcuni e non ci piacciono quando riguardano altri. C'è un principio di presunzione di innocenza, che significa appunto che una denuncia non basta a ritenere che una persona è colpevole. Però vuol dire che ha sbagliato il prefetto di Roma a giudicarlo invece pericoloso, evidentemente. Guardi, è vero che il problema è che se noi diciamo il giudice ha annullato il provvedimento in cui si voleva espellere uno stupratore, no? Noi diciamo una cosa falsa dal punto di vista dell'informazione, perché questa informazione noi non l'avevamo, avevamo delle denunce. Le regole del nostro ordinamento dicono che quello è presunto innocente. Questo è, nel momento in cui si mettono questi cittadini allo stesso livello di tutti gli altri cittadini italiani e comunitari, dobbiamo considerare che è come se fosse un italiano, perché ha gli stessi diritti di circolazione dei cittadini italiani. No, su questo è stato chiarissimo. Io vi ringrazio sia Giuseppe Cascini che Massimo Martinelli, giornalista del Messaggero, Cascini invece segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati. Qualcuno dice che doveva prima o poi accadere, come scrive Francesco Lalicata oggi sulla Stampa a Lampedusa, insomma, una pentola pressione c'è stata in questo centro di detenzione temporanea degli immigrati clandestini, c'è stata una rivolta con un incendio, proteste. Io saluto la senatrice Angela Maraventano della Lega, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ex vice sindaco di Lampedusa, poi se n'è andata con risse verbali col sindaco. No, non voglio farla litigare col sindaco. Non mi interessa proprio. Ecco, perché sembra che ogni giorno ci sia una dichiarazione, il sindaco contro di lei e lei contro il sindaco di Lampedusa. Le chiedo, lei se l'aspettava una rivolta di questo tipo e che lettura dà? Guardi, sinceramente le devo dire che non è la prima volta che succede una cosa di questa al centro di accoglienza di Lampedusa. Giustamente oggi i riflettori sono puntati tutti su Lampedusa ed era normale che anche negli anni passati succedeva che loro incendiavano i locali dove stanno, perché consideriamo che queste persone non è che sono proprio disperati, sono soprattutto irresponsabili, perché non è che fanno azioni solo di appiccare il fuoco, ingeriscono anche diciamo molte cose pur di scappare, di andarsene da Lampedusa. Purtroppo noi abbiamo un progetto ben preciso, che è quello del rimpatrio. Lampedusa non sta correndo nessun pericolo, tranne quello che purtroppo ultimamente ci sono stati molti fomentatori hanno fomentato questi poveri disgraziati perché si sentono appoggiati soprattutto dai nostri di sinistra, e allora diciamo hanno fatto questa azione. Ma ripeto, non è la prima volta che succede. Comunque, secondo lei, dice, bisogna andare avanti col rimpatrio. Certo, bisogna non fare. Io guardi, ieri sera anche in aula ho detto al ministro di andare avanti, perché io il fenomeno lo voglio depennare. I centri di accoglienza a Lampedusa li voglio togliere quando il tempo è necessario e giusto. Momentaneamente abbiamo bisogno di fare questa forma di azione forte e dura. Io spero che il ministro, insomma, va avanti, perché io voglio andare avanti, ecco. Non la no, no, questo è chiaro, senatrice. Intanto mi lasci salutare anche Fabrizio Gatti, collega dell'Espresso. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno, di questo tema si è occupato anche in prima persona. Fabrizio Gatti è quello che fa le inchieste vere, cioè, lo sapete, tra l'altro si era camuffato proprio da migrante dall'Africa, è partito, ha fatto il viaggio della disperazione fino ad arrivare a Lampedusa. Tra l'altro tutto è diventato uno straordinario libro che si intitola Bilal e che consiglio a tutti. Fabrizio, che lettura dai invece tu di quello che è successo a Lampedusa? Ma innanzitutto quello che è successo non è legato a un aumento degli sbarchi in questo periodo, c'è un cambiamento di politica da parte del governo e del ministro dell'interno Roberto Maroni, che da dicembre ha deciso di non trasferire più le persone che sono arrivate a Lampedusa e di mantenerle nel centro. Prima invece succedeva che le persone, anche quando venivano rimpatriate, rimpatri ci sono sempre stati, tranne quelli con la Libia, che poi sono stati sospesi per le condizioni disumane in cui le persone venivano tenute una volta arrivate in Libia. Ebbene, prima le persone arrivate a Lampedusa rimanevano da un minimo di 48 ore a un massimo di 8 giorni, e così capitò anche per me, e poi venivano trasferite in altri centri oppure obbligate a lasciare l'Italia con un foglio di via, che è vero, questo non veniva spesso rispettato, ma c'era anche il trasferimento in altri centri di detenzione sparsi per il territorio. Questo serviva ad abbassare la tensione su Lampedusa e soprattutto anche meccanicamente a togliere delle persone in una zona di transito. Adesso questo non avviene più, il disegno del ministro si vedrà in futuro, insomma, cosa intende fare, perché questo cambiamento di rotta. Finora la politica estera italiana per quanto riguarda i rimpatri con la Tunisia è fallimentare, perché avevamo un accordo con la Tunisia di rimpatrio già dal 2003, ma abbiamo visto in questi giorni che era bloccato, non funzionava, e il ministro dell'interno e non il ministro degli esteri è andato di persona in Tunisia a cercare di riaprirlo. Poi ci sono due o tre dettagli che vorrei osservare. Io quando sono stato rinchiuso nel centro di Lampedusa, e non era quello attuale, ma era uno in condizioni ancora peggiori rispetto a questo, vicino all'aeroporto, siamo stati in 1200 in un ambiente che aveva una capienza massima di 190 posti, si dormiva all'aperto, era autunno, per cui la temperatura era un po' più favorevole rispetto a ora, comunque già allora le condizioni igieniche erano non spaventose. L'aspetto diverso però è che nessuno, ma proprio nessuno, si venivano spogliati, perquisiti, nessuno entrava nel centro dei detenuti, dei reclusi, con accendini o con telefonini, cosa che invece pare evidente adesso avvenga, per cui siamo di fronte a una massima severità che intende mantenere tutti a Lampedusa e dall'altro aspetto però ha una sorta di leggerezza nei controlli delle persone che entrano. Questo è un tema... chiudi Fabrizio. Sì, ultimissima cosa, questo centro nuovo, tutti i centri di permanenza temporanea o detenzione, come si vuole chiamare, o di espulsione, vengono costruiti di solito in materiali ignifugo e con precauzioni per evitare incendi Sì, invece a Lampedusa non è così, questo è incredibile, cioè non c'è il certificato antincendio, certo, al centro di Lampedusa, almeno così ho letto i giornali. Senatrice Maraventano, effettivamente il progetto il progetto della Lega, del ministro Maroni, è quello di allungare i tempi di permanenza fino a 6 mesi, si vedrà, 4-5 mesi, ha detto ai nostri microfoni il sottosegretario Mantovano qualche giorno fa, si vedrà nel decreto, probabilmente forse domani, chissà. Perché allungare i tempi? Questo aumenta, insomma, la tensione, immagino che non sia piacevole stare lì nel centro di Lampedusa. Adesso, dopo quello che è successo, sicuramente si prenderanno dei provvedimenti seri, perché non è possibile, insomma, i controlli devono essere maggiori, diciamo. No, il progetto deve andare avanti, perché in 6 mesi noi possiamo avere la possibilità di identificare questi personaggi. Ma io l'unica cosa che veramente dico, soprattutto al popolo di Lampedusa, che l'ho già detto, di stare tranquilli, perché quello che è accaduto ieri non accadrà più. Nel senso che non che vuol dire più. Cioè, che vuol dire preannuncio una linea dura, non accadrà più, perché comunque le linee, secondo le mie proposte, le proposte che farò al ministro, saranno dure. Quindi, cioè, mi dica, mi scusi, ho 30 secondi, ma mi dica, allora, che vuol dire entrate tecnicamente? Adesso oggi ne parliamo e vediamo quello che verrà fuori. Cioè, che propone lei? Una cosa che propone. Cosa propone? Adesso si prenderanno, come ha detto anche Gatti, si prenderanno dei provvedimenti seri, non ci sarà più, secondo me, è una mia proposta, è una proposta che farò io al ministro, non ci saranno più accendini in giro, saranno più rigidità, ecco. Sì, più rigidità per evitare queste cose. E io vi ringrazio, perché devo proprio chiudere, sono in coda sia Fabrizio Gatti dell'Espresso, sia la senatrice Angela Maraventano della Lega, lampedusana DOC. Tra poco Giuliano Ferrara con il ministro Alfano parlerà del disegno di legge sulle intercettazioni, le discussioni che ci sono in atto su questo disegno di legge. Noi ci ritroviamo domattina.